2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 31 gennaio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it e come sempre vi ricordo che il modo alternativo che vi consigliamo di adottare per riascoltare 2024 oppure per ascoltare la nostra trasmissione in un altro momento rispetto al nostro appuntamento tradizionale del sabato pomeriggio, bene, è online il servizio podcast di Radio 24. Trovate tutte le informazioni su www.radio24.it oppure, se volete, potete inviarci una email. Ogni settimana sono molti gli ascoltatori che ci scrivono, ci chiedono maggiori informazioni sul servizio podcast e noi volentieri gliele forniamo, e sono sempre più le persone che scaricano la nostra trasmissione. Un grande successo del servizio podcast. Come dicevo, tutte le informazioni sono online e secondo me vi divertirete con questa nuova modalità per erogare, per utilizzare contenuti audio, nel nostro caso essendo una radio, oppure contenuti video per altri editori che si occupano anche di video. Una delle notizie più importanti della settimana arriva dalla Gran Bretagna. Entro il 2012, quindi posdomani, insomma, è dietro l'angolo il 2012, anno dei Giochi Olimpici di Londra. Pensate che cosa vuole fare il governo britannico? Punta addirittura a portare internet a banda larga in ogni casa. L'avete capito bene, insomma, un obiettivo piuttosto audace. L'obiettivo è quello di garantire una connessione di almeno 2 megabit al secondo, quindi una discreta ADSL, insomma una DSL di base potremmo dire, ma comunque banda larga è sempre. Ci sono però ancora molte domande che non hanno per il momento ricevuto risposta, ad esempio chi pagherà l'ampliamento della rete. Questo è uno dei punti cruciali di questo grande progetto. È stato pubblicato, annunciato un piano in questi giorni, ma alcuni dettagli su questo, ad esempio del chi pagherà la rete, su altri punti dovrebbero arrivare maggiori dettagli a giugno. Intanto le ipotesi che si fanno sul piano di estensione della rete dicono che questa spinta verso una sempre maggiore presenza di internet porterà alla creazione di 100.000 posti di lavoro, non è indicato in quanto tempo, ma comunque in quelle che vengono definite le industrie nascenti. Ricordiamo che da questo punto di vista la Gran Bretagna è forse il mercato più avanzato nel mondo. Alcuni ritengono che dal punto di vista della cultura digitale, della società dell'informazione e poi naturalmente anche per quanto riguarda le professionalità, le industrie, le aziende che si occupano di questo settore, in alcuni campi sia la Gran Bretagna più avanzata rispetto agli Stati Uniti. Sicuramente Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Corea del Sud sono i paesi più evoluti, poi ci sono da citare anche i paesi del nord Europa, ma sicuramente la Gran Bretagna è tra i primi posti. Secondo il governo, la rivoluzione digitale servirà anche per assicurare alla Gran Bretagna il raggiungimento di un'economia competitiva e a bassa produzione di anidride carbonica. Tutto questo dovrebbe infatti contribuire anche al protocollo di Kyoto. Meno anidride carbonica si produce, quindi anche con un'industria diversa dalla solita, più si è competitivi da questo punto di vista. Di tutto ciò si discute anche in Italia, non tutti purtroppo, in maniera potremmo dire meno moderna. Anche nel nostro paese si attendono risposte chiare sul futuro, ad esempio della rete, sugli investimenti che dovranno essere fatti anche su un altro fronte che riguarda internet, cioè quello della pirateria digitale. In Gran Bretagna la proposta è quella di istituire una nuova agenzia per i diritti digitali che dovrebbe coinvolgere i provider dei servizi internet, quindi gli internet service provider, nella repressione dello scambio illegale di contenuti digitali. Ma anche su questo il dibattito è molto aperto, molto acceso, quindi non tutto è stato definito. Anche di questo si sta parlando in Italia da molto tempo. Recentemente anche nel neonato Comitato Tecnico contro la pirateria digitale e multimediale, questa settimana c'è stata una polemica e Mauro Masi, che presiede il comitato ed è direttore del Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio, perché questo comitato è nato all'interno della Presidenza del Consiglio, dicevo, Mauro Masi ha detto che non vi è alcuna proposta al momento, alcuna proposta di legge tesa a mettere bavagli ad internet. esiste attualmente un forum raggiungibile dalla home page del governo, quindi www.governo.it, sul quale tutti i cittadini possono inserire le proprie posizioni, le proprie idee in materia. Masi è stato sollecitato dal senatore del PD Vincenzo Vita, il quale ha detto che il chiarimento si era reso necessario dopo che Altro Consumo aveva anticipato una ipotetica proposta di legge sulla pirateria digitale che avrebbe avuto qualche contorno, diciamo così, censorio. Al momento ci fidiamo di quello che dice Masi, che non esiste alcuna proposta, anche se appunto Altro Consumo aveva pubblicato una idea, almeno una bozza di questa legge. Diciamo, ci fidiamo di quello che dice Masi, almeno di quello che riportano le agenzie. Noi abbiamo naturalmente contattato Masi senza avere al momento ottenuto alcuna risposta. Parliamo dell'estensione della rete internet in Italia. Sapete, lo abbiamo detto più volte, che si può portare internet in zone dove oggi non esiste la possibilità di collegarsi in banda larga alla rete in tante modalità. Sicuramente quella da preferire è il cavo, ma posare cavo costa soldi, di soldi non ce ne sono molti. E allora, dopo Tre, che lo scorso anno aveva lanciato un progetto contro il digital divide basandosi sulla propria rete di telefonia mobile, ora c'è anche Vodafone che promette di coprire con la rete UMTS di nuova generazione, quella che gli esperti chiamano HSPA, che permette di raggiungere velocità vicine ai 7 megabit, almeno teoriche, poi nella realtà le cose non sono sempre così. Dicevo, Vodafone promette di coprire un comune al mese non ancora raggiunto da ADSL, quindi si propone la rete cellulare come alternativa al cavo. Il primo comune coperto questa settimana è Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Intanto, parallelamente, sembra una vera e propria concorrenza dei servizi wireless, quindi quelli senza filo, parallelamente cominciano ad accendersi le antenne di trasmissione di WiMAX. Lo scorso anno l'Inkem aveva acceso due punti in Puglia e in Lombardia, a Bari e a Brescia, ma finora non ci sono stati altri annunci da parte di l'Inkem, che comunque è stato il primo operatore. Dalla prossima settimana saranno attive le antenne di Aria, così si chiama questo operatore dell'Umbria, che porteranno il segnale in 21 comuni dell'Umbria. Aria è un operatore importante da tenere sott'occhio, lo avremo presto anche nei nostri studi per parlare dell'evoluzione della rete di questo operatore. Dicevo, è importante perché dovrebbe essere l'operatore più aggressivo, visto che è l'unico ad avere licenza nazionale. Quindi Aria ha la licenza per coprire con antenne, con tecnologia WiMAX, tutta l'Italia. Per il momento si parte dalla prossima settimana in 21 comuni dell'Umbria, visto che questa è una società che viene da quella regione, per poi estendersi ad altre regioni. Prezzi interessanti, perché sono stati stabiliti a partire da 15 euro al mese per un taglio minimo di 4 megabit al secondo. Da pochi giorni è invece attiva, quindi già attiva, l'offerta di Comeser, che è un partner locale di Retelit per la provincia di Parma. Sono al momento tre, solamente tre, i comuni serviti. In questo caso i prezzi sono a partire da 20 euro al mese. Quindi notizie interessanti, buona notizia per quanto riguarda il WiMAX. Torneremo, dicevo, presto a parlare di WiMAX, perché il tema è estremamente importante e interessante, anche se purtroppo, come abbiamo detto più volte, le frequenze che sono state date in licenza dal Ministero delle Comunicazioni in accordo col Ministero della Difesa in Italia sono purtroppo frequenze che limitano un po' il servizio. Speriamo che in futuro arrivino altre frequenze per poter contare anche sui servizi WiMAX in mobilità. C'è chi dice che si è fatta questa scelta, si è scelto di non estendere troppo le frequenze per non far troppo concorrenza agli operatori di telefonia mobile. Che sia vero o no, comunque la tecnologia oggi non permette di avere grande flessibilità sul fronte della mobilità per quanto riguarda WiMAX. È stato inaugurato da poche ore il centro di supercalcolo del Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici. La sede centrale di Lecce è collegata con altre 5 sedi periferiche, una sta a Bologna, poi Capua, Milano, Sassari e Venezia, quindi un centro che è collegato a rete con altri istituti di ricerca. Noi non ci occupiamo normalmente di ricerca, c'è Möbius su Radio 24, un'altra trasmissione che si occupa di ricerca, ma quello che vorremmo fare oggi è attirare l'attenzione sul mondo dei supercomputer. Sappiamo che oggi le potenze di calcolo di un normale PC, di un normale computer, sono cresciute a livelli impensabili fino a qualche anno fa, ma esistono ancora macchine con potenze, potremmo dire, difficili da immaginare, che si chiamano supercomputer. Se avete voglia, esiste un sito internet che è www.top500.org, che due volte all'anno fa la classifica dei 500 supercomputer più potenti del mondo. La prossima verrà pubblicata a giugno. Al momento il primo supercomputer in classifica, quindi il più potente nel mondo, è nei mitici laboratori americani di Los Alamos, nel New Mexico. Ci sono, pensate, quasi 130.000 processori. Naturalmente la capacità di un supercomputer non si misura solamente nella quantità di processori, ma questo, per i non esperti in materia, dà una idea. Il primo supercomputer italiano è quello del Cineca, il consorzio interuniversitario di Bologna, il Cineca, che è alla posizione 177, non benissimo ma nemmeno malissimo. Vedremo poi a che punto entrerà in classifica quello di Lecce, che è stato inaugurato in questi giorni. È sicuramente un supercomputer meno potente rispetto a quello del Cineca di Bologna. Questo supercomputer è composto da due calcolatori, uno della IBM dotato di circa 1000 processori e un NEC che è dotato di 100 processori. Per gli esperti diciamo che la potenza di calcolo totale è di 30 teraflops, difficile da immaginare, 30.000 miliardi di operazioni al secondo. La capacità di calcolo naturalmente crea anche una grande quantità di dati, c'è quindi bisogno di immagazzinarli da qualche parte, questi dati, per poi analizzarli, elaborarli. Per questo c'è anche una capacità a Lecce di 1,5 petabytes, quindi 1,5 milioni di gigabytes, insomma una quantità incredibile. Ma a che cosa serve un computer come quello installato al CMCC, il Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici? Lo abbiamo chiesto a Riccardo Simino, che è direttore della divisione High Performance Computing, quindi di supercomputer, di NEC Italia. Che cosa serve effettivamente un supercomputer? Il supercomputer serve praticamente per simulare dei fenomeni che possono avvenire in realtà. Quindi più un supercomputer è potente ed efficiente, più praticamente la simulazione diventa molto vicina alla realtà. Se io riesco a simulare un evento che può avvenire, io a questo punto qua lo posso anche prevenire in diversi metodi. Se devo parlare di un'alluvione, io studiando un letto di un fiume sono in grado, praticamente simulando un'onda di piena per esempio, di prevenire l'alluvione adeguando il letto o facendo delle opere che mi permettano praticamente di contenere quell'onda di piena, conoscendo che può, la possibilità che l'onda di piena si verifichi e può crescere per via del fatto che sta avvenendo un cambiamento climatico, plus per ritornare poi a quello che potrebbe essere una delle applicazioni tipiche del progetto CMCC. Lasciamo i supercomputer, tra poco ci occuperemo di IPTV. Che cos'è la IPTV? La TV che arriva via internet, ne parleremo tra poco. Ci sono anche altre notizie che arrivano dal mondo della rete che riguardano internet. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica di 2024, 2024 e radio24.it. C'è una novità che riguarda i servizi internet dell'Agenzia delle Entrate. C'è un nuovo servizio web che si chiama Locazioni Web e che permette di registrare i contratti d'affitto e pagare anche, ad esempio, l'imposta di registro, tutto online senza bisogno di scaricare alcun software. Esisteva appunto fino ad oggi ed esiste ancora disponibile un software da scaricare sul proprio computer, ma questa è un'aggiunta, una novità, come dicono gli esperti, web-based, quindi basata solo su internet. Sicuramente l'Agenzia delle Entrate, tra le espressioni della pubblica amministrazione, quella che ha i servizi più avanzati su internet. Ricordiamo che da tempo esiste la possibilità di fare la propria dichiarazione dei redditi online attraverso il servizio servizio online unico web, oppure con un altro software molto facile da utilizzare che è il software di Unico, e quindi è possibile scaricare dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Dopo essersi registrati viene inviato un PIN code e con quello poi si possono utilizzare vari servizi. È molto interessante l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate perché nel grande progetto della digitalizzazione della pubblica amministrazione penso che le competenze che esistono all'interno dell'Agenzia, ma anche nelle aziende che sono collegate al Ministero dell'Economia, possono queste competenze essere utili proprio per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Sarebbe un peccato andare a utilizzare esperienze esterne, magari di aziende private che devono essere pagate profumatamente, quando ci sono varie esperienze all'interno. A proposito dell'Agenzia delle Entrate, fino ad oggi, a proposito di questi servizi che sono stati annunciati, fino ad oggi sono stati oltre 1,47 milioni i contratti registrati usando il software, quello che si deve scaricare, oppure altri pacchetti di mercato, insomma, che sono creati da varie società. Sono stati 4 milioni i pagamenti eseguiti nel 2008. I contratti registrati con questi servizi telematici sono stati 174.000, quindi sicuramente ancora pochi rispetto al totale dei contratti, ma insomma comunque un buon numero. Ricorderete recentemente che abbiamo parlato di una tendenza che si chiama consumerizzazione. Gli americani la chiamano consumerization, cioè la tendenza ad utilizzare anche sul posto di lavoro gli strumenti tipici della nostra vita da consumatore. Quindi noi abbiamo un telefonino particolare con alcuni servizi che utilizziamo, abbiamo sul nostro computer magari un sistema di messaggistica in tempo reale, una posta elettronica particolare. Spesso quando parliamo di internet appunto utilizziamo questi servizi quando siamo a casa, e spesso questi servizi sono più facili da utilizzare, molto più flessibili rispetto a quelli che molte aziende ci mettono a disposizione. Bene, il fenomeno ha colpito anche la Casa Bianca e lo staff di Obama, abituato ad usare gli Instant Messenger ad esempio, oppure il Wi-Fi. Bene, ora molte delle persone di questa squadra si trovano in difficoltà, devono fare i conti con le rigide misure di sicurezza del governo. Beh, in questo caso chiaramente il problema sono appunto i sistemi di sicurezza molto elevati che la Casa Bianca deve avere, in altri casi sono le aziende che non si sono adeguate alla rapidità e alla flessibilità dei sistemi che ci vengono offerti gratuitamente spesso via internet, e appunto molti consumatori si trovano in difficoltà ad utilizzare questi sistemi che molte aziende obbligano i lavoratori ad utilizzare. Poi insomma il discorso è molto complesso perché le aziende hanno molte esigenze particolari e non sempre queste esigenze possono essere coniugate con quelle di noi consumatori. Ma questo è un fenomeno interessante che gli esperti di organizzazione aziendale stanno studiando. Adesso, come vi anticipavo poco fa, ci occupiamo di IPTV. Molti dei nostri ascoltatori sanno di che cosa stiamo parlando, ovvero della TV che viene erogata via internet con pacchetti che alcuni operatori italiani propongono al pubblico. Questo è uno sviluppo che stiamo assistendo un po' in tutto il mondo. Ci sono paesi dove le reti sono più sviluppate, naturalmente, quindi anche i servizi di TV via internet sono più favoriti, altri paesi che hanno qualche difficoltà in più, e quindi queste offerte sono limitate se non altro a zone del territorio dove la banda larga viene raggiunta dai consumatori in modo agevole. In Italia, lo dicevamo la scorsa settimana, è nata un'associazione che raggruppa i tre operatori italiani che hanno anche un servizio di IPTV. Parliamo di Fastweb, di Telecom e di Wind. Giovanni Moglia è il presidente di questa neonata associazione. Moglia, benvenuto a 2024. Grazie e bentrovati. Le lascio la parola all'inizio per dire agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Io ho già detto alcune cose sull'IPTV, molti ascoltatori immagino conoscano questo tipo di TV, ma vorrei che dal suo punto di vista lei spiegasse di che cosa stiamo parlando, di che cosa si tratta. Sì, credo che un minimo di introduzione sia a cuore, perché insomma in Italia, al contrario di quanto avviene nei principali paesi d'Europa e negli Stati Uniti d'America, non c'è l'esperienza della televisione via cavo. Questi paesi i consumatori sono abituati a ricevere la televisione, oltre che dall'etere o dal satellite, anche dal cavo che gli arriva in casa. In Italia, per ragioni storiche, che la televisione via cavo non si è mai sviluppata, e quindi gli italiani sono sempre stati abituati a ricevere la televisione esclusivamente dall'antenna sul tetto o ultimamente dalla padella che riceve il segnale dal satellite. L'evoluzione tecnologica però permette oggi di utilizzare anche la connessione telefonica, tipicamente il doppino che arriva in casa, il doppino di rame che arriva a casa di tutti gli italiani, o chi abita nelle zone servite da una rete in fibra ottica, dalla fibra ottica che gli porta i servizi di comunicazione, di ricevere anche la televisione attraverso questo sistema, il doppino o la fibra ottica. Questo avviene, diciamo, per tutti quella popolazione raggiunta dalla banda larga, quindi da connessioni, diciamo, che abbiano una capacità, una velocità tale da poter rendere un servizio telefonico o un servizio televisivo che sia comparabile con il servizio televisivo che proviene dall'etere o dal satellite. Fastweb, Telecom e Wind lo stanno servendo in questo momento a molti cittadini, a molte famiglie italiane, sono circa 500.000 e il servizio credo si propagherà in maniera molto forte adesso che ci sarà poi lo switch off dal analogico al digitale. Sì, noi in Italia appunto stiamo assistendo a una rivoluzione per quanto riguarda il mercato televisivo. La scorsa settimana Franco Bernabè ha ricordato che il digitale terrestre sarà una pausa, purtroppo si stanno spendendo molti soldi per questa pausa che sicuramente non rappresenta il futuro invece è rappresentato dalla TV via internet. Un primo problema è quello della diffusione, immagino, della banda larga. Voi avete anche come missione in questa associazione che è nata da poco quello di cercare di spingere verso la diffusione sempre più massiccia della banda larga, o non fa parte dei vostri compiti? Ma dunque, la diffusione della banda larga in quelle aree dove non è italiana, ancora non c'è, o dove c'è, diciamo, la capacità di poter fornire dei servizi performanti tali da poter far passare anche il segnale televisivo, è, diciamo, compito prioritario ovviamente delle imprese che fanno questi servizi, cioè delle imprese di telecomunicazione. La nostra associazione si occuperà però di favorire almeno un contesto tecnologico e un contesto normativo capace di sviluppare questo tipo di offerta, per cui anche la possibilità di cercare di omogeneizzare i vari sistemi con cui appunto si fa IPTV oggi in Italia, di poter avere apparati prodotti dalle varie case costruttrici che possano andare bene sui diversi tipi di rete, e in modo da rendere la penetrazione di questo servizio sempre più larga verso le famiglie italiane. Quindi ci sta dicendo che in futuro, speriamo presto, non ci sarà bisogno di un decoder per ogni servizio, ad esempio? Sì, noi quello su cui stiamo puntando è proprio di avere un decoder unico. Attualmente sia i decoder di Fastweb, di Telecom e di Wind hanno comunque la possibilità di avere l'attacco sia per l'IPTV sia per il digitale terrestre. Quello su cui stiamo lavorando è anche di provare ad avere un decoder che vada bene per ognuna di queste imprese, di queste reti, e quindi di essere un decoder che possa essere venduto a scaffale in qualsiasi negozio senza bisogno di conoscere prima l'operatore con cui ci si abbonerà. Insomma. Sì, quindi di non preoccuparsi di quale sarà il servizio, oppure, esatto. Oppure banalmente insomma di poter cambiare o essere abbonati, sì, a più di un servizio. Assolutamente sì, assolutamente sì. ...2024. Seguiteci nel pomeriggio di Radio 24, il sabato tra le 15.30 e le 16.30, questo è 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Stiamo parlando di IPTV, della TV erogata via internet. C'è un altro tipo di TV che viene erogata via internet, cioè la web TV, molto più flessibile, molto più facile da raggiungere, perché è una TV che viene, che si può vedere su internet senza alcun tipo di abbonamento normalmente. Poi ci sono anche le web TV che prevedono un abbonamento. Altra cosa, ma il canale utilizzato è sempre internet, altra cosa è l'IPTV, perché per vedere un programma con questa tecnologia è necessario un decoder, e normalmente i pacchetti sono erogati e proposti da operatori di telecomunicazioni. In Italia abbiamo detto i tre operatori sono Telecom Italia, Fastweb e Wind. Naturalmente Fastweb storicamente è stato il primo ad operare in questo settore, anche perché buona parte della rete, soprattutto a Milano, è in fibra ottica, quindi con una capacità di banda incredibile, ma poi appunto si sono aggiunte Telecom Italia e anche Wind. Purtroppo Tiscali, che aveva un servizio di IPTV molto bello grazie alla esperienza di Home Choice che è stata acquisita da Tiscali qualche tempo fa in Gran Bretagna, dicevo, purtroppo continua a operare in Gran Bretagna, ma ha chiuso il servizio in Italia. Troppo pochi i clienti, quindi difficoltà per Tiscali, che deve risolvere tutta una serie di problemi, non ultima la vendita della parte britannica della società. Vedremo quali saranno le novità per quanto riguarda l'azienda di Cagliari. È con noi Giovanni Moglia, che è presidente della neonata Associazione degli Operatori della IPTV Italiana. Moglia, ci dice quali sono le esperienze più interessanti dal vostro punto di vista che voi vedete all'estero, perché ci sono alcuni paesi dove i servizi di IPTV sono piuttosto evoluti, anche solo per numero di clienti abbonati. Ma dunque, oggi in Europa ci sono già 5 milioni di utenti a questo servizio di IPTV, quindi diciamo, è un servizio che già in Europa ha una larga diffusione. Sicuramente il paese che ha aperto di più la strada è stata la Francia, che ha dai 2 ai 3 milioni di utenti. Questo servizio si è sviluppato molto in Francia, ripeto, anche perché in Francia c'era una certa abitudine culturale al servizio di televisione via cavo, e perché poi ci sono state delle offerte favorite anche da un certo vantaggio fiscale che la Francia ha garantito a questo tipo di servizio. Noi crediamo che sia un servizio che abbia una forte possibilità di evoluzione, proprio perché coniuga e assorbe tutto quello che la televisione ha fatto finora, cioè quindi la televisione gratuita, un'era che conosciamo da sempre, alla televisione a pagamento, ai servizi a pagamento che abbiamo iniziato a conoscere da pochi anni, fino alla televisione on demand, cioè la possibilità di costruirsi da soli il palinsesto attraverso un'offerta che è potenzialmente illimitata, di programmi, di servizi, di intrattenimento. Questo probabilmente è il vantaggio maggiore dell'IPTV, quella di avere una vera e propria TV su richiesta. Io schiaccio il bottone, vedo la TV quando voglio, vedo il programma, il film quando voglio io, così come quando inserisco un DVD nel lettore, insomma, cosa che non è possibile con altri sistemi. è la peculiarità e la forza di questo sistema, di questo mezzo di trasmissione, cioè quello di poter dare sia servizi di tipo lineare, ma sia proprio di servizi on demand, su richiesta del cliente, e il cliente li utilizza il proprio telecomando e la propria connessione, vedendosi il film quando, come vuole, fermando il film, tornando indietro, andando avanti, cioè usando appunto, come diceva lei, come un DVD qualsiasi, però appunto quella connessione lo porta verso banche dati, offerte, vendite, eccetera, eccetera, pressoché illimitate, dico pressoché illimitate perché tanto più questo mercato si sta sviluppando e ci sono utenti che lo utilizzano, tanto più da parte degli offerenti dei contenuti, da parte delle grandi case cinematografiche come delle piccole case di documentaristica, si stanno offrendo questi contenuti al pubblico che utilizza l'IPTV, insomma, quindi è come poter avere accesso, diciamo, a una videoteca che man mano cresce e può diventare infinita. Sì, molto grande, sicuramente. Sì. Senta, ci sono ad oggi, poi chiaramente con lo sviluppo delle reti vedremo quello che succederà, ci sono oggi dei problemi di banda, si dice in questi giorni, soprattutto qualcuno si sta accorgendo, anche se insomma le cose poi guardandole con l'occhio giusto erano note già da tempo, ma che il digitale terrestre abbia poca banda, quindi ci saranno poi pochi canali, difficilmente ci sarà l'alta definizione, il satellite ha da questo punto di vista dei vantaggi ad oggi. Ecco, per quanto riguarda la IPTV, quindi la TV via internet, visto che in alcune zone sì esiste la DSL, ma insomma sono ADSL un po' in difficoltà, diciamo così, ecco, c'è un problema anche di banda e quindi poi di incapacità di erogare servizi ad esempio in alta definizione. Ma guardi, attualmente anche lì dipende dalle varie reti che i vari gestori hanno appuntato, ma insomma attualmente le principali città italiane hanno servizi di ADSL capaci di sostenere tranquillamente il servizio IPTV e dare un ottimo standard tecnologico e un'ottima visione televisiva. E poi ovviamente ci sono casi e casi, adesso dobbiamo essere chiari su questo, soprattutto quando si utilizza ovviamente il doppino, è evidente che se uno abita in una zona in cui magari il doppino di rame è vecchio o in cattivo stato, può capitare che il servizio non possa essere reso. Senta, quali sono, se ci sono, gli operatori attualmente protagonisti del settore televisivo che guardano con interesse all'IPTV? Ce ne sono alcuni? Ma, guardi, devo dire che io mi occupo ormai da qualche anno di questo servizio, di questo mondo dell'IPTV, e se all'inizio sia da parte delle major americane sia da parte dei protagonisti televisivi si è guardata l'IPTV con qualche timore, il timore per le major erano soprattutto timori di pirateria, perché tutto ciò che ha a che fare con internet viene erroneamente spesso accomunato alla pirateria, insomma. Il settore televisivo guardava questo nascente mezzo come un possibile concorrente sui contenuti che poteva in qualche modo trovare un terreno in Italia, peraltro difficile da aprire. Ora mi sembra che tutti si siano resi conto che l'IPTV è una realtà, che l'IPTV garantisce la trasmissione di contenuti senza possibilità di pirateria, che è un sistema per le società che fanno televisione in Italia per dare i propri contenuti, veicolare i propri contenuti, per veicolare contenuti che essi hanno prodotto negli anni e che fanno parte del loro archivio, che è un archivio peraltro ricchissimo e bellissimo, e diciamo queste imprese hanno quasi tutte fatto accordi di distribuzione con gli operatori IPTV e offrono appunto, oltre che diciamo il normale palinsesto televisivo che uno può vedere anche con un'antenna e via etere, offrono anche tutta una serie di altri servizi che possono essere visti solo attraverso appunto l'IPTV, come appunto la possibilità di entrare nelle teche della RAI, nelle teche di Mediaset e quant'altro. Insomma. Bene, moglie, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie a voi, a presto. Siete all'ascolto di 2024, ci fermiamo per un minuto, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, anche per chiederci informazioni su come fare per abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, per riascoltare la nostra trasmissione quando preferite, soprattutto con lo strumento che preferite, il vostro computer, il vostro lettore di file MP3 o molti altri modi che gli ascoltatori ci suggeriscono. Bene, scriveteci a 2024@radio24.it. L'ultima parte del nostro programma, parliamo di sicurezza informatica in questa ultima parte, da molto tempo non ci occupiamo di questo tema, ci sono comunque notizie ogni settimana, una recente ricerca della spagnola Panda Security conferma che la stragrande maggioranza delle email che riceviamo è spam, ovvero posta elettronica non richiesta, a volte dannosa per i computer. Non è certo una novità quella che comunica Panda Security, ma come dicevo è una conferma di altre ricerche. Secondo i dati di questa analisi, solo, pensate, l'8,4%, quindi veramente poche, l'8,4% delle email ricevute nel 2008 era legittimo, cioè faceva parte delle nostre normali comunicazioni. All'interno di questa percentuale, di questa percentuale che è oltre il 90% di spam, c'è anche il cosiddetto phishing, cioè il tentativo di rubarci credenziali magari per entrare nel nostro conto online. E se le cattive notizie non sono sufficienti, ce n'è un'altra che è stata annunciata a Davos, dove in settimana si è svolto il World Economic Forum. Secondo la californiana McAfee, i software malevoli, o il cosiddetto malware, è aumentato lo scorso anno del 400% e questo potrebbe arrecare alle imprese in tutto il mondo un danno complessivo superiore ai 1.000 miliardi di dollari a causa dei furti di dati o altri crimini informatici. Per parlare di sicurezza oggi è con noi nel nostro studio Massimo Vulpiani, che è country manager di RSA. Benvenuto a 2024, Vulpiani. Buonasera. Voi vi occupate in modo particolare, non solo, ma in modo particolare di autenticazione, di protezione delle identità, insomma di tutte quelle operazioni, di quelle tecnologie che ci permettono, ad esempio, banalizzo, di far sì che quando una persona accede ad un conto bancario sia effettivamente quella o comunque abbia l'autorizzazione ad accedere, che è un po' forse una delle esigenze più sentite in questi giorni. Esattamente, un aspetto tra l'altro è importante ed è l'aspetto che forse più ci tocca da vicino, perché tutti noi, oltre che occuparci in questo caso di lavorare nel settore, comunque siamo settore specifico della sicurezza informatica, ma siamo comunque come cittadini coinvolti da fenomeni particolari che stanno assillando quelli che sono servizi a cui noi come utenti, come cittadini cerchiamo di utilizzare, quali quelli di un conto bancario online. Se io andassi per strada e volessi fare alcune interviste a chi passeggia per le vie di una città italiana e facessi alcune domande sulla sicurezza informatica, probabilmente molti saprebbero dirmi così a grandi linee che cos'è un virus e quali sono le cose poi che capitano quando un virus attacca il nostro computer. Oggi il mondo dei computer, adesso anche in questo caso insomma è un termine molto restrittivo, come si è trasformato e soprattutto quali sono i pericoli a cui noi mentre navighiamo o le aziende mentre utilizzano le proprie infrastrutture online stanno andando incontro? Beh, direi che oggi c'è maggiore sensibilità, anche se non è mai abbastanza, verso situazioni che, come dicevo prima, ci riguardano tutti, perché noi oggi, grazie all'evoluzione di aziende, di organizzazioni con cui abbiamo a che fare, vedi banche, vedi la pubblica amministrazione, e anche per la tipologia di vita che conduciamo, sentiamo molto di più il bisogno di accedere da remoto, da casa, da un hotel o da un aeroporto ad un qualche servizio. In particolar modo, se facciamo riferimento al servizio online di banca, siamo ancora più particolarmente sensibili al fatto che, siccome si tratta del nostro denaro, siamo interessati a far sì che ci sia più protezione in questo accesso. Quindi ci aspettiamo che l'organizzazione, l'istituto finanziario, in qualche modo protegga questo accesso. Nel tempo c'è chi ha cercato di approfittare della disponibilità di questi servizi e della sensibilità delle informazioni che questi servizi hanno messo a disposizione. In che modo hanno cercato di approfittarne? Cercando di ingannare, magari ponendosi come un'entità legale nei confronti del cittadino, ma in realtà facendo in modo che il tentativo di colloquio, di interazione fra il cittadino e l'organizzazione del servizio venisse rediretto verso un sito fraudolento, e con l'obiettivo di rubare le credenziali con cui poi si ha la possibilità di accedere e di movimentare del denaro. Ecco quindi la differenza tra rubare direttamente i soldi, che magari può succedere per strada se uno ci ruba il portafogli, online le cose sono un po' diverse. Noi abbiamo fatto riferimento più di una volta ai soldi, perché mi sembra di capire che oramai tutto quello che di pericoloso capita in rete ha come obiettivo finale il denaro. Se facciamo riferimento agli istituti finanziari, è chiaro, è immediato far riferimento al denaro, perché è lì che presso gli istituti finanziari c'è a disposizione il nostro denaro, e noi cerchiamo di accedere, di predisporre delle transazioni via internet. Però il fenomeno può e deve essere esteso anche ad altri servizi. Facciamo riferimento alla pubblica amministrazione, alla sanità. Organizzazioni che si occupano di sanità offrono a noi cittadini l'opportunità di accedere a dei servizi e predisporre, attivare delle prenotare una visita. Però faccio solo un esempio banale, però quello che all'interno di questi servizi, di queste infrastrutture, ci sono dei dati che ci riguardano e sono estremamente sensibili, riguardano noi stessi. Cioè, comunque, se qualcuno approfitta e in qualche modo riesce a carpire le credenziali di accesso, potrebbe danneggiare la nostra immagine, la nostra persona. Quindi è ugualmente importante. Sì. Nel caso facciamo riferimento al denaro, perché l'aspetto, il concetto che più ci rende sensibili, per ovvi motivi. Capiamo molto bene, se uno ci ruba un po' di soldi, piuttosto che se uno ci ruba dei dati sensibili di altro tipo. Però mi sembra di capire che le cose si siano trasformate un po' negli ultimi anni, al punto che online ci sono delle organizzazioni criminali che puntano a rubare soldi, mentre una volta c'erano degli smanettoni, i famosi hacker, che esistono ancora, per l'amor di Dio, ma avevano tutt'altro scopo, quello di fare un po' di casotto e magari far parlare un po' di sé. Oggi esistono proprio delle organizzazioni vere e proprie. È verissimo, e lo dimostra anche l'evoluzione, c'è proprio una vera, come si dice, supply chain, un intero flusso di collaborazione. C'è un'industria. Un'industria vera e propria a cui più soggetti partecipano, e ognuno ha un ruolo ben preciso, ma l'obiettivo è, alla fine del flusso, consentire a chi ha avuto a disposizione maggiori, ha investito di più, di trarne maggiore vantaggio. È chiaro che possiamo fare riferimento al singolo che riesce a carpire in maniera manuale o automatica delle credenziali, che poi rivende in un vero e proprio mercato underground. Da questo mercato possono accedere altre entità che poi ne fanno uso fraudolento, perché le credenziali in sé, la persona che riesce a rubare queste credenziali se ne fa poco, ha poche possibilità. Se invece l'insieme di informazioni che ha visto l'evoluzione della tecnologia cominciano a essere proprio numerosissime, messe a disposizione di chi ha obiettivi davvero criminali, riesce a generare proprio del valore del denaro, del profitto per l'organizzazione. Con questi obiettivi in mente, queste organizzazioni investono e studiano proprio su come far evolvere le metodologie con cui riuscire a carpire queste informazioni. Allora, dal punto di vista criminale, l'Italia è sempre stata tra le prime in classifica. In questa classifica, cioè dei criminali online, come siamo messi? Ma diciamo che Dal punto di vista di paese da cui partono gli attacchi, non abbiamo una, per fortuna, un ruolo rilevante, chiave. Però siamo, e questo dovrebbe essere più significativo per tutti noi cittadini, siamo il terzo paese nel mondo a ricevere attacchi. Siamo subito dietro, subito dopo gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Quindi come paese siamo un obiettivo allettante per queste organizzazioni. I paesi più noti, da cui partono più attacchi, rimangono gli Stati Uniti, i paesi dell'est europeo piuttosto che asiatico. La Russia è diventata nota, ma la Sud Corea è un altro dei paesi da cui molto spesso partono, vengono compiti questi attacchi. Quindi comunque paese dove l'informatica ha un ruolo importante. Sì, diciamo però un fenomeno importante è questo, che oggi il fenomeno può essere ideato, ma internet consente la predisposizione di un attacco a livello mondiale, cioè io potrei preparare il mio attacco e predisporre dei moduli software su computer che sono distribuiti nel mondo e poi far partire da questi computer contemporaneamente o in sequenza gli attacchi verso un obiettivo. Quindi la distribuzione è molto molto più ampia. Bene, io ringrazio Massimo Vulpiani per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie mille, arrivederci. E prima di salutarci ci lasciamo con una domanda che abbiamo fatto a Paolo Maccarone, che è responsabile scientifico dell'Osservatorio Information Security della Scuola di Management del Politecnico di Milano, la School of Management del Politecnico a Milano, chiedendogli: ma le aziende italiane, visto che i rischi maggiori, come abbiamo detto anche prima, li corrono soprattutto le aziende, come sono equipaggiate, che sensibilità hanno verso la sicurezza informatica? Maccarone. Se parliamo di ambiti di sicurezza informatica, in realtà diciamo che dal punto di vista spesso delle applicazioni tecnologiche, in particolare sulla sicurezza perimetrale per esempio, la situazione è relativamente di buon livello, mentre a mio avviso va ancora fatto molto dal punto di vista sia della sicurezza interna, quindi che fa riferimento anche alle minacce provenienti dall'interno dell'organizzazione, sia con riferimento per esempio all'ambito della custodia, la tutela della proprietà intellettuale. Quindi lei dice all'interno delle organizzazioni c'è qualche problema culturale? Forse. Sì, diciamo che il problema è che su certi domini di sicurezza c'è già una certa, dal punto di vista tecnologico le applicazioni ci vengono in aiuto e quindi alcuni requisiti perlomeno minimi sono già implementati nella modalità delle imprese. Su altre tematiche c'è una minore sensibilità, tra queste quella della protezione del dato sensibile, non solo in termini di privacy ma anche in termini di valore intrinseco dell'informazione nell'ottica del business, e anche in termini proprio anche di possibili minacce, nel senso che alle volte si fa più attenzione a minacce provenienti, si fa esclusivamente attenzione a minacce provenienti dall'esterno, quando in realtà alle volte i pericoli vengono anche dall'interno dell'organizzazione, per esempio il classico, quello del dipendente non fedele o non corretto, Senta, si spende con consapevolezza? Naturalmente le aziende cercano sempre di risparmiare, ma questo è giusto per far tornare i conti, ma in questo ambito si vede il costo come un investimento o come un puro costo da sostenere per evitare problemi? Questa è una bella domanda, nel senso che mediamente in molti casi la sicurezza è vista ancora come un puro costo, per cui non se ne percepisce la valenza strategica. Va detto anche che in realtà, in alcune realtà più avanzate, invece si è iniziato a ragionare da tempo in termini di valore, ritorno dell'investimento, quindi di possibili ritorni positivi derivanti da un maggiore livello di sicurezza informatica. Anche di questi temi la School of Management del Politecnico di Milano parla negli appuntamenti in tutta Italia di SMAU. Trovate maggiori informazioni su smau.it. È tutto per questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'attenzione, per aver ascoltato anche questa puntata del nostro programma, magari via podcast, scaricando il file MP3 della nostra trasmissione su internet, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete maggiori dettagli, maggiori informazioni, oppure se volete comunicarci una vostra idea, un vostro parere, una vostra considerazione, è 2024 radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.